Era stato convocato per Luigi Pardo, ma non si è presentato. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, Pierluigi Pardo è stato convocato e sta per arrivare, è in arrivo, ma intanto abbiamo un sacco di temi di cui discutere. 800 24 00 24 per le vostre parole, per le vostre telefonate, oppure per i vostri iscritti 349-238-6666, messaggi e WhatsApp. Temi del giorno, cronaca, Spalletti ha diretto, cioè Spalletti, ho già sbagliato, Garcia, ho sbagliato apposta ragazzi. Ha diretto l'allenamento del mattino della Roma. Intanto, ieri c'è stato un colloquio a Firenze tra Sabatini e Spalletti. Intanto Spalletti è partito per Miami insieme a Baldissoni, dove incontrerà Mister Pallotta. Intanto è stato preallertato Alberto De Rossi, allenatore della primavera della Roma, nonché papà di Daniele. Questa è la situazione in casa Roma attualmente. L'ultima notizia, vi ripeto, è che Garcia dirigerà, dopo quello del mattino, anche l'allenamento del pomeriggio. Ma non sono così sicuro che arriveremo alla fine di questa giornata con il francese di nuovo allenatore della Roma. Intanto ha parlato ieri Florenzi, uno dei grilli parlanti di questa squadra. Mi ha fatto solo i complimenti, mi ha dato il suo appoggio anche dopo che avevo, insomma, che avevo perso, e non è un problema, da domani ritorneremo tutti a Trigoria e cercheremo di portare lavoro e sempre lavoro, e questo insomma il mio motto, è quello che mi ha portato a fare anche gol così, e speriamo insomma quest'altro anno di fare una cosa simile, anche se come ho già detto non so se ci sono gol più belli di quello. Questo era Florenzi. Allora, altro fronte molto caldo che è quello del Milan. Anche qui cronaca. Questa mattina c'è stato in Gazzetta il festeggiamento degli 80 anni di Dan Peterson, cui non finiremo mai di fare gli auguri. Tanti auguri Dan per gli 80. È intervenuto Galliani, che ha detto: ha ragione Dan Peterson che mi ha consigliato di tenere Mihajlovic. Però ieri ci sarebbe stato un incontro tra Berlusconi e Marcello Lippi. Incontro che però è stato smentito dalle parti. C'è la voce di Lippi. Io ho imparato nel calcio a dire mai dire mai, e la dimostrazione è quella che gli ho detto ora, perché io 2 anni fa ho detto basta con squadre di club, assolutamente mai più, e invece adesso se arrivasse una squadra di club che mi piace, anche in Italia mi metterei a lavorare ancora un paio d'anni, ecco. Sempre lecito cambiare idea, soprattutto per le persone intelligenti come Marcello Lippi. Intanto vi annuncio che alle 14.45 avremo Marco Brignazzo da Sole 24 Ore, che ha notizie importantissime e nuove relative alla cessione del Milan al gruppo cinese verso Oriente. Ci sono grandi novità. Intanto il Milan si prepara a giocare una partita fondamentale, che è a questo punto fondamentale per la sua stagione, che è quella di Coppa Italia contro il Carpi. Mihajlovic non ha paura. Mi può anche far piacere dopo una partita, prima di una partita del genere, però la società ha detto che non era vero, cioè penso che è tutto finito là. Non sono cose su quali io dovrei pensare e preoccuparmi, come ho detto. Sono troppo intelligente per cadere nelle trappole. Come ho detto, sono sereno, sono sempre stato sereno e sarò sempre sereno. Dunque lo scenario è questo, per le due squadre che si sono affrontate sabato sera all'Olimpico in una partita che non ha fatto né morti né ferite, è finita 1-1 e che sembrava aver salvato entrambi i tecnici. Invece Garcia è verso l'uscita dalla Roma e, ripeto, c'è Spalletti in viaggio con scalo Parigi verso Miami, dove incontrerà Pallotta, e chiaramente quella di Spalletti non sarebbe una soluzione di traghetto, ma una soluzione quantomeno a medio termine per la sostituzione di Garcia. C'è Alberto De Rossi, che è stato preallertato nel caso in cui non andasse in porto l'affare con Spalletti, e in quel caso sarebbe sì una soluzione di traghetto. Sul fronte Milan c'è Mihajlovic, che è sorvegliato speciale. C'è stato questo contatto, sebbene smentito, con Marcello Lippi, che non può essere identificato come un comandante di traghetto, visto il suo pregresso, il suo passato, il suo carisma, eccetera, eccetera. E c'è Mihajlovic che si dice sereno alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Carpi, che potrebbe però decisamente cambiare il suo destino. Questi i due temi principali. Poi parleremo anche di un pallone d'oro che ormai è una bufala, perché, ma questo lo diciamo da anni, è stato assegnato a Messi, tra l'altro c'è stata una fuga di notizie per cui già si sapeva che il pallone d'oro sarebbe andato al fuoriclasse argentino, ma ormai è e sarà un duello per i prossimi almeno 2-3 anni tra Messi e Cristiano Ronaldo. Dunque, ennesimo pallone d'oro a Messi, con Conte e Buffon che non votano per, in forma di protesta per il mancato inserimento, inspiegabile peraltro, di Buffon nel listone allargato dei candidati al pallone d'oro. Poi c'è la corsa scudetto tra Napoli e Juventus. Napoli campione d'inverno, la Juventus non molla, l'Inter chissà, ha parlato Pogba. Scudetto è anche grazie, è anche le giocatori, la squadra, grazie alla Juve, perché senza la Juve non sarò qua. E per la Champions League, per il Bayern, sappiamo tutti che è una grande squadra, poi l'allenatore è forte su questo, di anticipare come loro vanno a giocare, quindi ascoltiamo solo l'allenatore e basta, e poi è sul campo che facciamo le cose. Queste le parole di Pogba. Dunque, i domandoni sono: giusto sostituire a questo punto, a quest'ora della stagione, o magari era meglio farlo prima, o magari era meglio farlo in estate, Garcia con Spalletti, o eventualmente con il traghettatore Alberto De Rossi? Giusto sostituire a quest'ora, a questo punto della stagione, Mihajlovic ormai chiaramente sfiduciato e dalla proprietà e probabilmente forse anche dai giocatori, con Marcello Lippi? E poi corsa scudetto, Napoli, Juventus e anche Inter, sono queste le tre candidate che sono rimaste? Questi primi domandoni su Messi, beh, lascio a voi una pietosa valutazione sull'importanza del pallone d'oro, ma poi ne parliamo, ne parliamo chiaramente con chi ha votato, a differenza di Conte e di Buffon, per il pallone d'oro al fuoriclasse argentino del Barcellona. Gianni, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dica. Io sono milanista e logicamente la situazione del Milan mi fa quasi piangere, però fra i pro e i contro a Mihajlovic io sono per i contro, perché dopo 6 mesi Mihajlovic non è ancora riuscito a dare un gioco alla squadra, pertanto questo è assolutamente inconcepibile. Avrei una proposta per il presidente del Milan. Sentiamo. Perché non richiamare Seedorf, che sarebbe a costo zero, perché Lippi secondo me non accetterebbe per 6 mesi, ma vorrebbe di più. Io fossi in Berlusconi richiamerei Seedorf. Cosa ne pensate? Grazie. Penso che quella sia una storia finita, Gianni. Penso che non ci siano i presupposti per riaprirla. Penso che Lippi possa essere grosso modo un traghettatore verso il futuro, e magari possa assumere nel Milan un ruolo dirigenziale. Però vi ripeto, l'aspetto fondamentale in questo momento nel Milan è il fronte societario, e alle 14.45 avremo Marco Bellinazzo che ci spiegherà quali sono le novità che stanno intervenendo sul fronte societario del Milan, perché io comunque continuo ad avere l'impressione che fino a quando non si risolverà quel problema, quel punto del nuovo assetto societario, ogni allenatore lascia il tempo che trova. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24 per le vostre chiamate, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Il signor Pardo non è al momento raggiungibile. Tutti convocati. Tutti convocati. Ladies and gentlemen, the FIFA Ballon d'Or 2015 goes to Lionel Messi. Felipe, lo che significa per essere il quinto, che nunca jamás imaginé una cosa así, así que muy feliz. That's gracias al fútbol por todo lo que me dio, por todo lo que me hizo disfrutar, pasar tanto buenos momentos, conocer mucha gente. El fútbol me lo dio todo. Los malos momentos también, aunque no gusten. E dunque il faccino contento di Lionel Messi ritira il suo ennesimo pallone d'oro, ma questo già lo sapevamo perché c'era stata una fuga di notizie secondo la quale da parte della FIFA, secondo la quale Messi era già potenzialmente in possesso del nuovo ed ennesimo pallone d'oro. Paolo Condò invece ha votato. Buongiorno Paolino. Ciao Carlo, buongiorno, ciao Pier, buongiorno a tutti. Pier sta salendo le scale a differenza. Fare piano. Sì, è meglio a differenza o prendere l'ascensore, a differenza di Buffon e Conte, tu hai espresso il tuo giudizio per Messi? Sì, beh, insomma, tu dicevi prima che è una bufala, quest'anno direi di no. Quest'anno direi che Messi è stato incontestabilmente il miglior giocatore del mondo. È un discorso della bufala che posso accettare per il 2010, per il 2012. Sì, però Paolo, il mio discorso è che ormai per la formula nuova si è ridotto a chi è il miglior giocatore del mondo, e allora grandi dubbi non ce ne sono. Sì, ma ripeto, quest'anno coincidono le due cose. Cioè, il migliore del mondo in assoluto è stato il più decisivo per il triplete del Barcellona. Direi assolutamente di sì, mentre invece concordo sul fatto che in passato le due cose non coincidevano, e le famose isole Vanuatu, che io prendo sempre in giro, ma hanno votato Pogba quest'anno, quindi vedi, a forza di stimolarle si sono evolute e non votano più solo Messi e Ronaldo. Aspetta, ti faccio la radiocronaca. Ecco Pardo che entra dalla porta sulla sinistra, sulla sinistra, maglione marrone su camicia, hai bloccato Montagarichi. Eccoci, come va? C'è Montagarichi bloccato. Tranquillo. Foggia 4 in 4 minuti. Parliamo noi 5 minuti, va, diamogli tempo. Condò, l'unico votante italiano al pallone d'oro. Ha votato Messi. Quest'anno veramente l'unico. L'unico, esatto. Quest'anno veramente l'unico. Tu non ti sei astenuto per protesta, però, eh? No, lo diremo a Ilaria, lo diremo a Ilaria. Ovviamente glielo avevo già anticipato. Sì, no, ho ritenuto che comunque se tu stai dentro a un gioco devi seguirne le regole, anche se in questa fattispecie non ti piacciono. Certo. Ho telefonato a France Football per sapere se potevo votare fuori dalla lista dei 23. Mi è stato detto di no, e devo dire anche che condivido. Sì. Perché se no l'anno prossimo vale tutto. L'inglese vuole votare Harry Kane, e l'anno dopo il francese vuole votare Matuidi, insomma ognuno c'ha, quindi io per esempio credo che Cassano fosse una, no? Cioè fosse comunque lo meritasse, no? Una buona chance perché per questo lo faccio. Sto scherzando, altrimenti... purtroppo queste ultime due partite le ha giocate a urne ormai chiuse, altrimenti ci sarebbe stata lotta. Esatto. Senti, ma come valuti, Paolo, invece il gran rifiuto di Conte e di Buffon? Certo, non inserire Buffon nella lista dei 50, non inserirlo nella formazione ideale. Ha giocato una grande stagione, lo ricordiamo, Gigi Buffon. Ha vinto quello che doveva vincere sul fronte nazionale, è arrivato in finale in Champions League. Non so se sia stata una dimenticanza voluta, una dimenticanza dovuta. Propendo per la teoria dello stegista, sì. Con tutto il rispetto per i stegisti, nel senso che alla FIFA in questi mesi c'è un tale casino. Sì. Ma un tale casino, come potete facilmente immaginare, che un giorno uno ha detto dobbiamo fare la prevista del pallone d'oro, e questi erano già che stavano scappando con le valigie in mano, sì, piene di soldi, sono finiti in galera o altro, e hanno detto al primo che passava fai tu questa lista. Questo se l'è dimenticato di Buffon, ha avuto un lapsus, chi non ha un lapsus nella vita, dimenticato di Buffon. Qual è il problema? Che poi ci sono due giornalisti, uno è Fabio Licari della Gazzetta e l'altro è Paco Aguilar del Mondo Deportivo, che sono formidabili nel trovare notizie all'interno della FIFA. E loro hanno tirato fuori questa lista dei 59. FIFA, secondo me, che non è ufficiale, la FIFA secondo me a quel punto avrebbe dovuto dire Scusate, ci siamo dimenticati, ovviamente la lista diventa di 60 con Buffon. Naturalmente ammettere un errore è la cosa più difficile del mondo per un sacco di gente. Negare sempre, negare sempre anche l'evidenza. Specie l'evidenza. Ecco, esatto. Ti ricordi c'era un nostro? No, vabbè, lasciamo perdere. L'abbiamo capito. Ecco, e quindi si è andati avanti con questa cosa che oggettivamente trovo che sia un... che il pallone d'oro abbia fatto una brutta figura in generale su questo. Dopodiché non è la prima volta, perché Milito escluso dalla lista dei 23 nel 2010 era una forcata simile. Grida vendetta. Quello che sia due gol nella finale di Champions League, una follia assoluta. Folle. Ma posso dire adesso, io diciamo che ho più affetto per Condò che per il pallone d'oro, lo dico sinceramente. Anche, ma enormemente di più. Cioè, nel senso, ormai nel senso è una cosa che a me non appassiona zero, guarda. Anch'io. Allora, fra due anni Messi raggiunge i governi di Andreotti. Capisco il tuo discorso. Però ti devo dire tra due anni Messi raggiunge i governi di Andreotti, ha detto. Potrebbe raggiungere. Raggiunge i Wimbledon di Federer. Appunto. Ecco. Però questa mattina ho pubblicato su Twitter il mio commento sulla Gazzetta, dove davo le motivazioni del mio voto, e in un paio d'ore ci saranno state, andando a occhio, 3.000 interazioni fra risposte, insulti, retweet, preferiti e così via. Quindi che il pallone d'oro fosse più bello una volta con i vecchi criteri, ok. Ma che non interessi più a nessuno è una falsità totale. No, cioè, interessa, Paolo, interessa. È la interessa, cosa che interessa di più al mondo. Sì, questo è indubbio. Su nessun argomento dei quali io, ma anche Piero ovviamente, che ha molti più follower di me, ci soffermiamo su Twitter, ecco, nessun argomento scatena reazioni come questa. Sì, però non vedremo mai più un cagnaccio come Sammer o come Bielanov vincere il pallone d'oro. Questo è il senso. Questo è vero. Questo forse potrebbe essere anche rassicurante. Sì. Questo è rassicurante, secondo te. Ma perché? Perché? Peggiore. No, ma però l'effetto sorpresa ormai ci viene negato in maniera totale, Paolino. Vabbè, sai, ho lanciato una proposta ieri. Proposta ovviamente fra noi, perché nessuno la prenderà mai in considerazione. Mi piacerebbe che il pallone d'oro si trasformasse in una specie di premio Nobel. Lo vinci una volta e poi non lo puoi vincere più. Sì, questo sono secondo me alla fine racconterebbe la storia del calcio in maniera molto più approfondita. Sì, ma quello senz'altro. Sono d'accordo. Ma devo dire che questa è una tendenza, però, che il nuovo format del pallone d'oro ha ulteriormente enfatizzato, al di là del fatto che poi Messi lo merita, per carità. Però anche in anni in cui Messi non è stato così clamorosamente all'altezza, alla fine la nomination sarà sempre beccata. Cioè, Messi e Cristiano ci stanno sempre. Per carità, sono i due giocatori di questa decade, di quest'epoca, però insomma poi c'è tutti il terzo gli anni che fa la pezzeria, cioè diventa un po', mi sembra più marketing che altro, ecco, tutto qui. Poi è ovvio che sono i due giocatori simbolo di quest'epoca, però voglio prima di come salutare Borg Paolo Condò nel tennis di 30 anni fa, prima di salutare Paolo Condò voglio coinvolgervi entrambi sui due argomenti del giorno, sentendo Paolo Condò e poi Pardo, con cui parleremo ampiamente. Allora, Garcia in uscita dalla Roma, Spalletti in volo verso Miami per parlare con Pallotta, Mihajlovic in uscita, pare dal Milan, c'è stato un contatto Berlusconi-Lippi peraltro negato. Come vedi queste due vicende, Paolo? Ma io ti do due giudizi e così facendo ti dico come le vedo. Trovo che la Roma stia facendo parecchio di meno rispetto a quelle che sono le potenzialità della sua rosa. Trovo che il Milan più o meno, andando a spanne, stia facendo quello che la sua rosa potrebbe permettere, forse un po' di meno, però io trovo che le squadre che stanno davanti siano più forti o come organico, ecco, e quindi qui la colpa è della società, o come gioco, Sassuolo ed Empoli, e qui la colpa è di Mihajlovic. Sì, sei d'accordo, Piero? Sono d'accordo, io non so onestamente dirti se la Roma stia facendo la cosa giusta, nel senso che che Garzia, però ormai mi sembra, sì sì, ormai l'ha fatta, non è che fatta, no? Però solo per un discorso legato a Conte, nel senso che se tu prendi un allenatore, se sarà veramente Spalletti, vuol dire fare una scelta di questo tipo, e che è una scelta programmatica, una scelta programmatica che ci sta. Per me Spalletti, lo dico, un grandissimo allenatore, non è un semplificatore, cioè non è uno che mi aspetto che possa dare risultati subito, quindi è quanto di più lontano da un traghettatore, un allenatore vero da questo punto di vista, che avrà bisogno di essere supportato sul mercato in un certo modo, ed è una scelta che ci può stare, al di là del fatto che le minestre riscaldate non è che proprio mi facciano impazzire in assoluto filosoficamente, però va bene così, insomma. Io penso che alla fine l'allenatore è inevitabile che non sia mai il solo colpevole, però l'allenatore è la sintesi della squadra, è come il dirigente d'impresa, è come il direttore di giornale, cioè alla fine poi è quello che risponde del risultato. Poi è ovvio che la colpa non è soltanto sua, e nel caso di Garzia sicuramente stiamo parlando di un allenatore che ha portato due secondi posti che non fanno parte, insomma, diciamo della normalità della storia della Roma, quindi secondo me se verrà ricordato come un flop si sbaglierà, perché tutto è stato meno che un flop, però che il filo si sia ormai spezzato mi sembra evidente. Allora, saluto Paolo Condò, che con cui è caduta peraltro la linea. Mi tengo stretto per Luigi Pardo. Sentiamo la borsa insieme, poi torniamo 800240024 proprio per approfondire questo cambio ormai in divenire sulla panchina della Roma. Ricordo, Garcia ha diretto l'allenamento della mattina, dirigerà quello del pomeriggio. C'è Spalletti in viaggio verso Miami per parlare con Pallotta. È stato preallertato invece anche Alberto De Rossi, allenatore della Primavera, papà di Daniele, e quella sì sarebbe una scelta chiaramente di traghetto. Borsa. Partita in bilico, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Sereno, perché lui l'abbiamo un po' imparato a conoscere in questi anni, è una mentalità, a dispetto di quello che sento dire negli ultimi tempi, sicuramente vincente, perché è un allenatore che ha vinto in Francia con una squadra piccola, quindi per come la vedo io è molto più difficile farlo con Lille, Coppa di Francia e Scudetto nello stesso anno, piuttosto che con il Paris Saint-Germain. È arrivato a Roma in una situazione che ricordiamo noi romanisti molto bene, dove se non hai una mentalità vincente non riesci a dare alla squadra quella voglia di riemergere. Io credo che la notizia di questa sera sia la solitudine di Garzia. Io, se vuoi sapere cosa penso, penso quello che pensano la maggior parte dei tifosi della Roma, cioè che Garzia è colpevole di non aver dato a questa squadra un gioco riconoscibile, di avere una rosa che, pur malissimamente assortita dal cosiddetto mago del mercato Sabatini, è però tutto sommato una rosa che in questo campionato mediocre è competitiva, resta competitiva, ed è imbarazzante questa sera considerare la Roma fuori dal giro dello scudetto, perché è a una manciata di punti. Oggi vedere Luis Enrique premiato come miglior allenatore è proprio la legge del contrappasso, punto. E queste voci le conosci bene, Pierluigi Pardo, perché sì, sono uscite a Tiki Taka di ieri sera, Francesca Brienza, fidanzata di Garcia, e Fabrizio Roncone. Corriere della Sera. Il signor Roncone. Ma sì, che insomma non ha nascosto di essere di fondo contrario alla gestione di Garcia, ma anche al tempo stesso insomma ci sono secondo lui delle responsabilità da parte della squadra e della società. Io credo sinceramente che sia appunto un brutto finale di partita. Mi sembra che quel filo si fosse spezzato. Credo che perdere l'ipotesi Conte, ammesso che fosse possibile per la Roma, sia certamente delittuoso. Però è anche vero che insomma era difficile andare avanti in questa maniera. Al tempo stesso vengono fuori ancora una volta tutte le stranezze e le particolarità di questa società. Nel senso, ieri sera Sabatini andò a Firenze da Spalletti. Oggi sì, Spalletti è in viaggio verso Miami. Quindi sì, tu pensa che si va verso una presentazione domani e Spalletti potrebbe di fatto allenare la squadra fra un paio di giorni, con due giorni in ritardo perché c'è stato questo passaggio tecnico di Miami. e probabilmente anche con del jet lag, con del food, cioè, insomma, anche questo ti dà un po' il senso di una, no, precarietà, tu dici. No, io dico che per carità, va bene tutto, però insomma che l'allenatore se viene preso, viene preso e deve venire qui e deve venire ad allenare, sì, no? Ma è una delle tante disfunzioni di fondo che comunque caratterizzano la Roma, cioè un proprietario molto distante, quindi anche prendere decisioni come cambiare allenatore implica questo passaggio, questo attraversamento dell'oceano, queste lungaggini. Ciccio Graziani, come la pensa? Buongiorno. Eccomi qua, ciao, buongiorno Ciccio. A tutti, come andiamo? Molto bene, tu? Tutto bene, grazie, abbastanza bene. Se la Roma facesse qualche risultato in più saremmo tutti più contenti. Adesso cambia allenatore e farà qualche risultato in più oppure no? Ma no, non lo so, io dico che le responsabilità vanno sempre suddivise. Io penso che a settembre, e non solo, ma anche a novembre, tutti eravamo concordi nel dire che la società aveva operato benissimo, perché se non mi ricordo male all'undicesima giornata di campionato la Roma era prima dopo la vittoria di Firenze, prima da solo in classifica, e l'allenatore era bravissimo e la squadra altrettanto brava. Poi quindi si è entrati in un periodo buio dove adesso si rimette in discussione tutto, la società che non ha operato bene, l'allenatore che è diventato incapace, i giocatori si sono persi per strada, non si sa per quale motivo. Ma quindi Soldoni, tu avresti confermato la fiducia a Garcia? Cioè confermeresti la fiducia a Garcia? Io credo che per il lavoro che lui ha svolto in questi 2 anni e mezzo sicuramente meritava ancora fiducia, a meno che io società non mi accorgo che tra l'allenatore, la squadra e il suo staff, come si è evidenziato in questi giorni, sì, non c'è più dialogo, non ci sono più rapporti. Allora, il sospetto esiste, Pierluigi. Esiste. Questo è il grande problema. Ma per i risultati ottenuti, noi dobbiamo soltanto valutare questo periodo davvero buio in questi ultimi. Sono d'accordo, Ciccio, però il sospetto di quanto tu hai detto, sappiamo dello scambio, del cambio dello staff, dei preparatori, sappiamo, sì, di tutte queste cose. Il sospetto che questo scollamento ci sia, esiste. Però Carlo, dimmi. Se a me mi cambiano staff, io divento comunque capo di quello staff, sempre. Perché essendo io allenatore, alla fine tutte le responsabilità vengono su di me. Quindi quello staff io lo posso gestire. E se poi mi accorgo che alla fine non riesco a gestirlo perché ognuno va per conto proprio, chiamo la proprietà e gli dico: signori, io con questa gente non ci vado d'accordo. Ma io ne ho sentite tante su questo punto. Ho sentito anche l'altra sera Novellino dichiarare: se mi cambiano lo staff io mi metto di traverso. Ma domanda, ti dimetteresti? Non mi dimetterei. Non è mai così, perché primo, per dimetterti devi avere il coraggio di rinunciare a delle cifre incredibili, certo. E quando non ci si trova uno è facile dire: ma io rinuncio a 2 anni di a 2,5 milioni, 2,8 milioni netti, ma di che vogliamo parlare, su? Va bene, e allora arrivi a un punto in cui ti esonerano, magari anche in maniera calcolata, mi passate il termine? Io voglio dire questo, poi facciamo parlare gli altri ospiti e Pierluigi, ma io dico, se mi mettono un altro staff, io divento capo di quello staff deve comunque fare riferimento sempre a me, sì, c'è collaborazione, c'è disponibilità a tante cose, però sono sempre io responsabile di quello che poi questi signori operano insieme alla squadra. Sì, questo senz'altro. Io però, Ciccio, ti dico una cosa, insomma, sullo staff, vabbè, quest'anno si è parlato dei nuovi preparatori che non stanno funzionando, l'anno scorso l'aveva scelti lui e non funzionavano nemmeno. A me sembra onestamente che questa squadra sia in rottura prolungata, ha vinto una delle ultime 10 partite e mi sembra, tu conosci l'ambiente di Roma molto meglio di me perché ci hai giocato, insomma, è ovvio che a Roma, che piaccia o no, giusto o sbagliato che sia, quando perdi il controllo della situazione non lo recuperi. Cioè la storia dice questo, la storia dice che a Roma hanno vinto degli allenatori che erano dei guru, Lidolm, te lo ricordi Capello, bene, negli anni 80, e Capello, che comunque era uno che aveva, anche nei momenti in cui era in antagonismo con l'ambiente, però aveva una forza caratteriale, una sicurezza, una capacità, una prepotenza, mi verrebbe da dire, che Garcia non ha. E questa è la sostanza. Poi probabilmente c'erano dei dubbi su Garcia già in estate. Questo forse è il vero nodo della questione, no? Ma io credo di no, perché alla fine anche l'anno scorso ha avuto un periodo molto buio, difficilissimo. Però alla fine il risultato ottenuto anche in virtù di quella vittoria, di quel derby famoso, ha ricreato tutti i presupposti perché si potesse ripartire in pompa magna, addirittura migliorando la squadra rispetto all'anno prima. Adesso tutto è andato in maniera perfetta fino all'undicesima, alla decima, all'undicesima giornata. Dopo siamo andati dentro un tunnel che non si vede l'uscita. L'uscita, certo. E perché la squadra, oltretutto, negli ultimi tempi sta giocando a dei ritmi bassissimi, cioè tra un po', voglio dire, non me ne vogliono i calciatori della Roma, ma se mi fanno fare gli ultimi 20 minuti a quei ritmi li reggo sì, anch'io. No, che c'ho no 60, ma poi contro la Roma con ogni probabilità segni, perché contro la Roma con ogni probabilità la butti dentro. Allora, io Ciccio, credo che in questo momento García sia in grande difficoltà, soprattutto lui che è responsabile, perché purtroppo non ci sono i risultati, e quando non ci sono i risultati gli allenatori sono sempre al centro della grande attenzione. Questo è chiaro, fa parte anche un po' del gioco. Un'ultima cosa, Ciccio, so che avevi qualcosa da dire sul fronte invece Quagliarella, mancate esultanza, no, eccetera, sentito, eccetera. So che hai scritto delle cose, hai detto delle cose che ti hanno solleticato. Ho sentito ieri, Carlo, sì? e sono pienamente d'accordo con te, un pochino meno con Pierluigi. Perché io trovo che questi bambolotti, io li definisco bambolotti di oggi, che giocano a calcio, che hanno la possibilità di fare gol, come succede a Quagliarella, e di non esultare perché giochi contro la squadra avversaria con cui tu ci hai giocato. E questo è già di per sé una bestemmia per me. Perché io ho giocato 8 anni nel Toro. Quando ho fatto gol con la Fiorentina al Torino, io ho esultato. Io sono d'accordissimo su questo. Io sono, cioè, sulla teoria sono non d'accordo di più, anzi, addirittura arrivo a dirti che questa cosa qui, forse noi che facciamo comunicazione, dobbiamo quasi farle una campagna. Dovremmo quasi fare una campagna. L'hai detto, mi verrebbe quasi da dire che, insomma, così come quando il pallone viene buttato fuori, bisogna dire che il pallone non va buttato fuori a meno che non lo decida l'arbitro. Qui si esulta sul gol. Bravissimo. Per dare una specie di ok, che ovviamente. Del quale non c'è bisogno, ma culturalmente potrebbe anche esserci bisogno per questi calciatori. A me è l'attacco a uno, nel senso che non è né il primo né l'ultimo giocatore della storia del calcio che non esulta. Quindi prendersela così mi sembra francamente eccessivo. Ma oltretutto, per una cosa, per una situazione che io un pochino la conosco, perché in questi anni con Quagliarella ci ho parlato tante volte, lui c'ha questo dente avvelenato perché è stato fatto passare come uno che aveva tradito Napoli, e invece è uno che è andato via da Napoli per una convergenza di interessi, fra cui alla fine anche il suo, che non è andato a giocare nella serie C svedese, è andato a giocare una grande squadra. Luigi, ma quando io vado via da una squadra non sto più a discutere del perché o del per come. Quando si va via da una squadra è perché io vado a fare i miei interessi, e la società molto probabilmente porta avanti i suoi interessi, perché per certo, andare via dalla società. Però Quagliarella è napoletano, tifoso del Napoli da bambino, si è trovato nella situazione di lasciare il Napoli dopo un'annata che sicuramente non l'aveva fatto impazzire, ma non è andata nemmeno così male, e di essere fatto passare come il traditore che se ne voleva andare e se ne andava nella riva. Quindi c'è un po' il dente avvelenato su questo. Poi, Luigi, tu fai una cosa, prendi affittati una pagina di un giornale, visto che hai le potenzialità per farle, anche dal punto di vista finanziario, e gli spieghi di poi sei Napoli perché sei andato via, tutto qui. Ma quando si va via dalla società, sono d'accordo. C'è un doppio interesse, che è quello mio perché me ne vado, e l'interesse di una società perché molto probabilmente va a mettere anche loro una firma. Sono d'accordo, però il discorso rimane aperto. Mi verrebbe da citare De Gregori, non è solo da questi particolari che si giudica un giocatore. Poi il mio consiglio a Quagliarella e ai calciatori, anzi lo dico, facciamo una campagna, facciamola, conteremo molto volentieri dalla settimana prossima, nello spirito del gioco, esultate, perché i tifosi sono persone intelligenti e capiranno che in quel momento è una vita che lo dico, non mi danno retta purtroppo, ecco perché l'ho definito i bambolotti, perché non si ha rispetto di una società dove tu hai giocato non esultando. Tu hai rispetto di quella società perché tu quella maglia l'hai onorata, sei stato tifoso di quella squadra. Ma se io cambio, onoro la prossima maglia. Certo, chiaro, facciamo questa campagna. Né tanto piccoli né tanto grandi, facciamola. Cominciamo. Io ci aggiungerei la storia del, del pallone sparato fuori ogni volta che giocatore cade per terra. Facciamolo una volta. Facciamo l'hashtag. Facciamo l'hashtag esultate ad ogni gol. Ciccio, grazie. Io, no, ti abbraccio. Carlo, un dimmi. Solo. Sì. Tu Quagliarella, che io stimo e rispetto, gli voglio anche bene perché gioca nella mia squadra, nella squadra che tu dici. Il gesto di aver chiesto scusa è quello che ha fatto arrabbiare. Ma certo, ma lo che è solo. Ovvio, è ovvio. Sì, sì, sì. Questo è il grande ma è ovvio, problema. È ovvio anche perché stiamo parlando di una tifoseria, quella granata che è veramente una tifoseria storica, innamorata, letteraria, cioè stiamo parlando di una squadra dove il valore, il senso della maglia vale ovunque, vale in qualsiasi club. Però insomma, il Torino ha una storia di un certo tipo, ha una tifoseria calda, innamorata, particolare, molto, certo, molto sensibile, ma in senso positivo. Quindi che ci sia stato questo tipo di reazione non mi stupisce. Però dico, facciamola la cosa da subito, ma secondo me non crocifiggiamo soltanto Quagliarella, perché lo fanno in 150. Chiaro, e perché nello specifico mi sento di dire che c'è un alibi per quello che riguarda Quagliarella, che è questo qui, di una ferita che secondo me gli è rimasta aperta negli anni. Va perché bene. Quagliarella, nonostante l'accento, non è nato a Bolzano, è nato a Napoli, e quindi sentirsi ogni volta dire "omo de me" dalla tua gente ti fa rodere, anche certo, se poi probabilmente poteva giocarsela meglio. Allora io ringrazio Ciccio Graziani, ci fermiamo per il traffico. Fabio da Cremona, Alessandro da Roma, Andrea da Modena, li sentiamo dopo le 15 quando avremo tanto spazio, perché subito dopo il traffico ci colleghiamo con il piano di sopra, con il Sole 24 Ore e con Marco Bellinazzo, perché sono novità importanti sulla cessione del Milan. Tutti convocati. Tutti convocati. Ecco dunque che torniamo, ci stiamo per collegare con Marco Bellinazzo, che ci racconterà alcune cose nuove sulla cessione del Milan. Ci pare ci siano nuove piste cinesi in questa lunghissima storia. Mentre aspettiamo Bellinazzo, Fabio da Cremona è ancora lì? Fabio, pronto. O Alessandro da Roma? Eccomi. Ale, pronto, vai. Eccomi, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, no, rischierò di tornare su un argomento che credo ormai è un po' monopolizzato la giornata. Insomma, abito a Roma, non sono, seguo la Roma, non sono tifosissimo, e questo mi permette di vedere le cose con un po' più di distacco, quasi fastidioso, dicono i miei amici. Comunque, riprendendo quello che diceva Graziani di queste fasi alterne, in realtà la sensazione è che la Roma ha smesso di giocare a metà dell'anno scorso. I secondi posti sbandierati anche prima, durante la vostra trasmissione, in realtà sono stati due secondi posti con distacchi abissali. La Roma non è mai stata in corsa allo scudetto. Sono anche stati due secondi posti diversi. Sì, perché il primo anno andava molto bene. Ieri, scusa, ti lascio parlare. Ieri la Brienza ha detto una cosa, secondo me, giusta, che è proprio molto psicologica e molto sua, ovviamente, di una persona che ha un rapporto speciale con l'allenatore, che forse Garcia è partito troppo bene, nel senso che il primo anno e l'inizio del primo anno è stato talmente positivo che si è ingenerata nell'ambiente la cosa che per forza si dovesse migliorare. E sai, dal secondo arrivare al primo con la Juve di questi tempi non è facilissimo. Prego Alessandro, scusami. Sì, però poi la realtà è questa. La sensazione è che adesso magari sarà un po' drastico, un po' forzando il concetto, che la Roma ha smesso di giocare veramente bene dopo la badotta col Manchester, come se si fosse rotto un incantesimo. Lì hanno realizzato tutti che grande squadra in realtà Bayern, non erano. Col Bayern, l'anno scorso. No, ancora prima. Con il primo 7-0, adesso forse ricordo. No, 7-1 di Spalletti è un'altra storia. Quella è un'altra vicenda. C'è passato di tutto in mezzo. No, io non credo. Io credo che il Bayern l'anno scorso sia stato un passaggio chiave abbastanza importante e significativo. Quest'anno c'è stato anche il Barcellona. Poi ti dico la verità, la Roma ha fatto 5 vittorie consecutive ed era arrivata alla pausa, quella di novembre, in ottime condizioni. A novembre nel derby vinto c'è l'infortunio di Salah, sì, fuori un mese, si fa male Gervinho in nazionale, fuori tutte e due, e da quel momento la Roma si blocca. Però ha ragione, insomma, l'ascoltatore sul fatto che insomma è dall'inizio del 2015 che la Roma non gioca bene. Chiaro, dai. Chiaro. L'anno scorso è arrivata seconda con delle prestazioni. Senti, Pierluigi, ti propongo, visto che Berinazzo è di corsa, sì, di sentire cosa ha da dirci. Abbiamo ancora sei minuti, di sentire che cosa ha da dirci a proposito delle novità che circondano il Milan sul fronte societario. Marco, ciao. Eccoci, ragazzi. Ciao. Sì, siamo, speriamo, alla svolta definitiva in un senso o nell'altro. Domani partirà questa delegazione Fininvest Shenzhen. Ci sono state queste ultime ore febbrili, insomma, per arrivare a un dentro fuori. C'è tra le notizie il fatto che a Shenzhen ci sarà l'incontro con Mr. B e i suoi due o tre partner cinesi, con i quali dovrà essere trovata l'intesa sulla base dei, delle condizioni di cui abbiamo parlato in tutti questi mesi, cioè il 48%, ma è spuntata anche un'altra cordata che fa riferimento ad Alibaba o Alibaba, cioè il grosso canale di vendite online, tra l'altro di proprietà di Jack Ma, quotato a New York, tra l'altro coproprietario del Guangzhou, la squadra allenata fino a poco tempo fa da Marcello Lippi, e questo crea anche un diverso modo di vedere gli incontri supposti o veri tra Berlusconi e Lippi degli ultimi giorni. Insomma, le difficili condizioni sportive del Milan delle ultime settimane hanno spinto le parti ad arrivare a sedersi al tavolo per un dentro fuori, perché non si può più perdere tempo, sia per quanto riguarda i potenziali acquirenti, sia per quanto riguarda la società Milan nel futuro del club rossonero, che sta andando male in ambito sportivo, ormai tutti lo posso dire, non, Marco, posso dire, non mi sembrano così a una prima occhiata grandi notizie per i tifosi del Milan. Beh, sì, si tratta di uscire però da un equivoco, cioè certo, quello di aspettare un cavaliere bianco che venga a salvare la baracca, e si tratta di piuttosto arrivare a concludere un accordo o cercare altri acquirenti. Cioè, ricominciare da capo? Beh, con Jack Ma e Alibaba si tratterebbe in qualche modo di ricominciare da capo, per quello si preferisce sempre la quotata di Mr. B e i suoi partner cinesi, si andrà lì proprio per arrivare a una definizione. Se ci sarà l'accordo, a quel punto la palla passa agli avvocati, che nel giro di un paio di settimane dovrebbero poi portare al cosiddetto closing, a quello che fin troppo spesso le stesse parti contraenti ci avevano detto essere un momento vicino, e che invece è stato rimandato di oltre un anno. Boh, tu cosa dici, Piero? Io dico che la cosa più importante è la chiarezza, mi pare. Bravo, evidente. Questo è che il Milan abbia un appeal internazionale, questo lo so che magari questa cosa mi ingenera poi dei commenti, perché sono due piani diversi. Da un lato c'è la storia del Milan, che è una storia gloriosa, il marchio del Milan che è fortissimo, dall'altro c'è un presente di risultati veramente sbiaditi. Quindi magari se uno guarda con la lente dei risultati può non capire, ma il Milan ancora, poi certo, se passano altri 10 anni di risultati sbiaditi il valore meno, si deprezza, no? O anche meno. Sì, però voglio dire, la forza del club, se vedete dal punto di vista del brand, rimane enorme, e quindi non mi sorprende. La chiarezza, in un modo o nell'altro, però penso sia utile che si chiuda questa vicenda, sì, nell'interesse del Milan dal punto, sì, di vista sportivo, sì, calcistico. Però è altrettanto chiaro, Marco, che se non si chiude con Mr. B, ripetiamo, possono esserci altri filoni, possono esserci altre manifestazioni di interesse, però sostanzialmente, permettimi la brutalità, si è buttato via un anno. Direi di sì, è chiaro che i soci cinesi, i partner cinesi avrebbero comprato subito il Milan se la vendita sarebbe stata quella iniziale, cioè quella della vendita della maggioranza del Milan. Berlusconi ha voluto che si introducesse una formula diversa, e la crisi dei mercati finanziari asiatici non ha aiutato in questi mesi. Si era anche ipotizzato in queste ore di una vendita addirittura della maggioranza, quindi tornando ancora con un passo di gambero indietro. La soluzione finale è stata: restiamo come era sull'accordo, 48%, 480 milioni, e poi quotazione in borsa quando si spera le acque sui mercati saranno più calme. Ma è evidente che non c'è più tempo da perdere, non si può ancora aspettare, perché appunto il fascino del brand Milan, le sue potenzialità commerciali oggi ci sono, se si continua a perdere altri 2 anni saranno molto molto meno efficaci, soprattutto perché bisogna vincere la concorrenza inglese, quella tedesca e quella spagnola sui due mercati. Al momento il Milan è ancora ben posizionato in Cina, ha grandi potenzialità di sviluppo commerciale, ma se, ripeto, non si... No, ma chiaro, qui ha ragione Pierluigi, bisogna anche fare presto, perché non puoi andare incontro ad una serie di stagioni fallimentari e poi sperare di avere lo stesso valore. Sembra un discorso abbastanza normale. Marco Berinazzo, ti ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Sai cosa faccio adesso? Che fai? Pardon? Che fai? 800 24 00 24. Riesco a trovare il contatore delle telefonate. Dove sta qua del web? Adesso te lo faccio mettere. Me lo metti sullo screen saver. Ma sai cosa faccio adesso? Sì. Vado a cercare Cruciani. Dov'è? Non lo so, vado a cercarlo. Ma mica è arrivato Cruciani? Sì, l'ho visto prima, adesso vado a cercarlo. Signor lo vuoi? Signor Cruciani. Proviamoci. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Convocati. Boban all'improvviso non vuol farci festeggiare, dobbiamo stare a lutto, l'ha detto lui a Sky. Ma te che te ne fotte, vulim festeggiare. Boban, tu stai schiattando un colpo, e che sta verità. Peppe Iodice dice com'è, Tardo? Peppe Iodice è molto simpatico. Non sono d'accordo sul fatto non che non sta festeggiare. No, che non sta, com'è si dice, non sta schiattando un guop. Non sta schiattando un guop. No, non sta schiattando un guop. Insomma, Boban ha detto una cosa invece costruttiva e dal suo punto di vista vera. Non lo so. Vera. Secondo me dal suo punto di vista vera, abituato a Milanello, abituato. Non esiste un punto di vista univoco. Te l'ho detto che lo trovavo Cruciani. Eccolo qua, il signor Cruciani. Di chi state parlando? Che non so nulla, scusate. Il signor Boban. Boban. Ah, ancora la cosa di due giorni ancora fa. Ancora la polemica di Boban. Che ha detto il Napoli non dovrebbe fare festa dopo ogni vittoria perché questo non è da grande squadra. Ma insomma, non è da grande squadra. È che a Napoli funziona così. Anche ai tempi dei primi scudetti. C'è di male? Gli scudetti di Maradona, la gente era in piazza ogni partita. Ogni 5 minuti. Hanno vinto lo stesso. Esatto. Ma infatti è esattamente questo. È un non problema. È dai. Questo. Cioè, Boban è abituato a Milanello, a una squadra vincente, uno spogliatoio vincente, ha una certa... abituato a Milano, c'è la nebbia, fa freddo, e quindi, si torna negli spogliatoi, nel presto si beve un tè caldo. Vede un rischio, ma secondo me in maniera, lo dice in maniera trasparente, libera, sincera, allora, e senza doppi fini. Se si vedessero i giocatori sfilare sui carrozzoni per le strade o nelle discoteche bardati a fare festa a gennaio, allora sarebbe... Okay. È da preoccuparsi. Però se vanno siccome... sotto le due curve a ringraziare, è una scaramanzia, è un momento di comunanza con la città. Sapete che questo famoso coro cantato sulle note dei Righeira in realtà ormai lo sappiamo, no? Ne avete parlato forse. Sì, è sì, stato sì. Anche cantato soprattutto dalla curva della Juventus, incredibile dictu, prima che dalla curva del Napoli, oltre che da svariate curve italiane. Ieri la Zanzara è stato ospite il mitico Stefano Righi, in arte Jonathan Righeira, che ha spiegato tutto anche la curva del Modena. Va bene. Vincenzo Chietti, buongiorno. Buongiorno a voi. Ricca, 8024, ex squadra di Guagliarella. Fatto di Guagliarella. Colori del Chieti, diciamo. Nero verde. Ha fatto anche la telecronaca di un Napoli Chieti 1-2, può essere. Ha fatto anche Napoli Vispesaro. Però lì ha vinto il Chieti sotto il Napoli di Ventura. È fallito il Chieti, che ha fatto? No. Il Chieti è vivo e lotta insieme a noi, sì, vero? Sì, sicuro. Cruciatevi, sta molto calmo, cruciatevi. È una domanda, amico, ho detto che è fallito, è crollato. Diglielo che cruciatevi. Allora, il fatto del risultare, Ilicic due settimane fa a Palermo ha fatto due bei gol. È una succita, ma è ben applaudita Ilicic. E quindi? Ricordi Ilicic che ha fatto, non è risultato, la gente l'ha applaudito. Sì, sì, ma infatti. Però da oggi per noi, nel nostro piccolo mondo, sarà tutto diverso perché vi diciamo perché aderite vogliamo... alla campagna esultate. Basta. Una campagna giusta, straordinaria. Aderisci che, anche tu. Che sono allora, tessera numero uno, Giuseppe Cruciani. Sì, no, anche numero zero. Più importante è la zero della uno. Perché zero, la uno è il primo. La zero è proprio quella del fondatore. Però il problema è che i giocatori hanno le loro responsabilità. Perché Quagliarella, ora, la cosa fondamentale è la libertà individuale, cioè ognuno fa quello che vuole. Dunque, se Quagliarella si sente di non esultare, non è che possiamo spingere, anzi, mi disiscrivo subito. Scusa, ci ho ripensato, mi disiscrivo. Mamma mia. No, come, ma come? Ci ho ripensato. Un'iscrizione rave, è durata 5 secondi. Capito, che io sei trasformista. No. Abbiamo letto che sei nel gruppo misto, sei andato subito. No, ci ho ripensato subito, perché in realtà esiste la famosa cosa, una cosa molto importante, che è la libertà individuale, bene, anche dei calciatori, sì, di fare quello che vogliono. Però se uno non vuole esultare, non esulti, non gli rompano i coglioni le curve, i tifosi, i web, internet, questa cosa qua, scusami. Però io ti dico questo, va bene, ok, sono d'accordo. Certo, sì, però se i tuoi nuovi tifosi si incazzano, no, hanno tutti i diritti. No, non hanno nessun diritto di rompere le balle. No, hanno tutti i diritti. Ma questa cosa di Quagliarella è veramente una cosa ridicola. Ma di che stiamo parlando? I tifosi del Torino, che evidentemente hanno altro, protestano per altro, non protestano contro Quagliarella, perché se la squadra andasse benissimo non protesterebbero, se la prendono con Quagliarella perché cosa? Perché col Napoli non ha esultato e ha chiesto scusa. Ma chi bravo, se ne frega? Se, ma se un giocatore però, scusate, torniamo ragazzi, siamo qui per fare la storia, siamo qui per fare la storia con questa magnifica iniziativa che dopo 5 minuti già sta traballando. Io quello che ti voglio dire è che questa è la classica situazione un po' di moda. No, nel senso che in questo momento per un calciatore tante volte quando giochi contro un'ex squadra la cosa più semplice da fare per non avere casini, per come è l'andazzo, è non esultare. Sì, ma non credo che ci sia la paura qui. Paraculismo. Non credo che ci sia la paura dei tifosi che ti picchino oppure che ti perseguitano oppure che ti rompano le balle. È semplicemente una forma. A me non me ne frega niente, devo dire, se uno esulta o non esulta. A me piacciono le esultanze, trovo strano che un giocatore non esulti, questo sì. Però... ripeto, se un giocatore per un motivo o per l'altro, a meno che dietro non ci siano ricatti, ma è evidente. Però, però il punto qui è un punto secondo me più di moda, di abitudine, di diciamo legittimazione a poter fare una cosa senza problemi e senza conseguenze. Facciamo una campagna nella quale chi vuole, noi rimaniamo iscritti, ma perché dal punto di vista del tifoso, il tifoso lo capisce, non è che non lo capisce, non è che il tifoso della squadra avversaria, sì, ma c'è dietro qualcosa, cioè, non è che ti devi... la protesta dei tifosi Torino nei confronti di Quagliarella, non c'è solamente la mancata esultanza. No, ma c'è una lunga storia. Poi quando lui ci scrivono disse, anche va dalla Juventus, che non, squadra che non esulta contro nessuno, ci dicono tanti tifosi del Torino, no? Anche perché lui ha fatto 23 gol da ex, per cui insomma diciamo che la sua storia è piena da questo punto di vista. Non ci sono grandi discussioni su questo, però secondo me è la classica cosa dove invece un'iniziativa aiuta perché secondo me è come quando ti dicono che ti devi mettere la cintura di sicurezza o come quando ti dicono che il pallone non va buttato fuori. Ma la cintura di sicurezza, no, dai, non mi fare il sofisto. No, mi sembra ti esagerato, cioè, nel senso che è giusto. E cioè è bello quando un giocatore esulta, si può esultare ovviamente senza togliersi la maglietta. Bravo, senza fare quello che dico anch'io. Non c'è bisogno di, ma perché di fare carnevale e inquadrare i comportamenti dei giocatori perché sono fastidiosi, perché bisogna esultare, ma quando... chi a me non me ne frega, ma tu fai se Quagliarella esulta o no te ne frega qualcosa, io ma se no. Sono tifoso del Torino, però sei contento che ha segnato e ti incazzi perché non esulti, mi incazzo perché non esulti, sei un coglione, allora scusami, se sei tifoso del Torino sono tifoso del Torino con Quagliarella perché ha segnato, sì, perché è un mio giocatore, sei un coglione, è un mio giocatore e meriti di essere un coglione, è un mio giocatore, io voglio vederlo parteggiare per questa maglietta, ma poi io voglio che vada, che si fidanzi con mia sorella. Ma no, ma che vuol dire? Si è sposato con una gran figlia. Pochi minuti e l'arrivo di Cruciani, come vedete, ha rasserenato il clima, portando diciamo una tradizione un po' da programma democratico cristiano all'interno della radio di Confindustria. No, detto questo, sicuramente il tifoso del Torino, c'è cioè addirittura chi dice tanto casino per nulla, bastava che non tirasse il rigore. Cioè, Gino, io lo voglio bene. Mi sembra una follia. L'ha segnato. Però, appunto per questo, ti dico. Secondo me è giusto che sottolineare per l'ennesima volta che secondo me è molto più bello se i giocatori sono liberi. Poi se uno non vuole esultare perché non vuole esultare, allora. Ma devono essere liberi di farlo consapevoli del fatto che allora tu pensi che non siano liberi? Allora tu stai pensando che non siano liberi, cioè penso che per evitare guai. Ma qual è il massimo della vita per un attaccante? Ma non per evitare guai che gli mille meno. Allora? I guai che c'è la polemica il giorno dopo, è esultato. Quale polemica? Quante volte, così, non c'è nessuna quante polemica. Volte noi giornalisti andiamo dai giocatori prima della partita dicendo se segni esulti? Quante volte devo sentire fare questa domanda? Una domanda che non dovrebbe esistere. Però non dovrebbe esistere, però appunto per questo è una di quelle cose che secondo me va enfatizzata, perché se si enfatizza si dà anche più forza ai giocatori per poterlo l'unica fare. Cosa che guarda si può quello dire che una, canto che non canta l'inno nazionale. Mi sono ma disiscritto dai. A questo gruppo perché invece l'imposizione non mi piace, dunque la campagna fatevela voi. A me piacciono le campagne, però questa non aderisco. Ci ho pensato per un secondo, poi non è un'imposizione esultare, è siate liberi di esultare. Vabbè, non preoccupatevi delle conseguenze di esultare contro la tua ex squadra, perché il tifoso intelligente della tua ex squadra sa benissimo che se sei professionale, se certo, ami te stesso, la tua vita e la tua tifoseria, tu dai tutto quello che hai in corpo, esattamente come facevi quando giocavi in quella squadra lì. E questo è il senso del calcio. È assurdo che io, in un momento in cui godo come un riccio in calore, mi sto lì perché mi devo perché preoccupare calore, delle conseguenze. Riccio, bastava riccio. Perché era giunto in calore? Rafforzativo. No? Magari come un riccio. C'è dai, il riccio frigido, no? Ci può essere il riccio frigido? Beh, è difficile. Il riccio frigido, le la grandi inchieste degli animali. Di tutto gli animali possono essere frigidi. Che fa De Luca che si sbraccia? Che sta facendo? Che cosa c'è? Che c'è il traffico, ci sarà. No, non c'è il traffico. Che si chiude, che c'è? Non c'è. No, c'è Carlo Laudisa. Il traffico ciao, è solo Carlo. Durante la zanzara. Ma poi può esistere una trasmissione che finisce alle 15:25. Ma può esistere una trasmissione? Perché finisce alle 15:25? Io non me lo sono mai spiegato. Perché? Perché finisce alle 15:25 questa trasmissione? Me lo spieghi? Per consentire alle 15:30 a Enrico Ruggeri di fare il falco del gabbiano. Può esserci anche un altro orario per il signor Ruggeri. Però perché una trasmissione devi finire alle 15:20? Divento pazzo! È io. Il tempo di scaricare la fascia! Le trasmissioni normali sono 18, 20, 16, 18, 12, 14. Però, nella normalità però del non mondo abbiamo, non abbiamo così. Il traffico. Comunque però scusa, traffico. Siete una baraonda, povera Radio 24, cambio stazione. No, dai, torna sempre da noi, non te ne andare. Questo. Arriva Cruciani dopo 2 minuti, già tutto in caciara. I ma giocatori che non esultano vanno espulsi. Vanno espulsi. Io esulto cretino, quando faccio un gol di fila. No, ma stai buono. È un cretino questo. Vabbè, ho capito. Ma un rapporto un po' più sereno con l'ascoltatore. Non si può dire che è un cretino uno che dice che i giocatori che non esultano vanno espulsi. Puoi dire che non sei d'accordo, se non sei d'accordo. Se lo dice Mughini, quando siamo di fronte a una boiata mega galattica, Laudisa. Buoni, Carlo Laudisa. Come va il mercato? Ciao. Anche se il mercato sembra qua, Dica. Ciao. Da che parte stai, Carlo? Io sono che aspetto, sono in doppia fila. In doppia fila, ha detto. No? Cosa accade, Laudisa? Come sei in doppia fila? In doppia fila. Sì. No, vedete che c'è traffico, attenzione, sono in doppia fila, quindi mi devo affrettare anch'io. Vabbè, un momento cabarettizio. Che succede no, oggi nel mercato, sente, Laudisa? Quale sarà il colpo di oggi? Ho prestato il mio telefono a Laudisa, quindi non si sente, Carlo. Il colpo di oggi è in un mercato in movimento è Immobile. Ecco, ma che cos'è? Veramente hai abbracciato con Figarra e Pivone? Io ti ascolto, allora mi devo seguire. Però bella, Ma non è male, infatti, non è male. L'abbiamo sottovalutato, l'hai trattato come che va al Torino, no? Che va al Torino, torna al Torino. Fare una piccola considerazione su quell'argomento che stavate trattando prima. Il paradosso è che una volta c'erano le bandiere e il problema dell'esultanza non esisteva, adesso che le bandiere non esistono più. Ci si pone il problema se un giocatore deve esultare o meno. È assurdo, certo. Ma è così. Il calcio non si evolve. Giusto. Senti, quante ore mancano al cambio di allenatore della Roma, che per Cruciani era la favorita numero uno per lo scudetto e magari lo è tuttora? Ma non so, non era solo per Cruciani, perché comunque il potenziale tecnico della Roma era importante. E io ero tra coloro i quali all'inizio non avevano fiducia in Garcia, perché ho la vecchia battuta che è da... Il primo anno si chiamava Garcia, da quando ha fatto il Garcia, cioè ha cominciato a fare un po' di compromessi e non ne ha più capito nulla. E quante ore mancano? Dipende dal volo di rientro da Miami di Spalletti. Ma è tutto domani la cosa, dai, si chiude tutto domani, anche se devo dire la verità, se Spalletti è riuscito a strappare un anno in più, perché poi alla fine è quello il quid, no? Non credo che sia una questione. Spalletti è un uomo ricco che non ha bisogno di contratti milionari, ha guadagnato già per vivere lui e le prossime due generazioni in Russia. E il problema è, credo, questo anno di contratto, perché diciamo la verità, la Roma non voleva una soluzione lunga, voleva aspettare un po' di mesi per decidere l'allenatore del futuro. La Roma ha fatto di tutto per... Spalletti non è uno di quelli che dice sì, d'accordo, resto sei mesi, perché non gliene frega niente di rimanere sei mesi. Ma no, è stata la battaglia dei nervi di queste settimane fra il Milan e la Roma, perché è evidente che c'è Antonio Conte sullo sfondo e quindi la Roma ha cercato in tutti i modi di dare un contratto di sei mesi, come evidentemente il Milan ha avvicinato Lippi con questo tipo di proposta, perché sia Sabatini che Gagliani spererebbero o avrebbero sperato nel caso di Sabatini di arrivare a Conte. Io credo che la scelta di Spalletti, e giustamente Spalletti non tanto per una questione economica ma proprio per una questione di fiducia, chiede l'anno in più per evitare il lodo Conte. Sì, ma anche questa cosa qui è tutta un po' assurda, perché io non so con chi parla Conte, quanti messaggi di quanti messaggi viene investito Conte, no? Perché poi tutto è tramite messaggini, non si uno si fida più di parlare, tutto avviene tramite messaggi, no? Chi chiama Conte, chi gli manda messaggi, chi gli dice allora saresti disponibile, chi no. Però mi sembra veramente tutto assurdo, cioè pensare che a giugno poi, no, avere Conte a giugno e dunque stare fermo mi sembra una cosa veramente ridicola. E anche come è ridicolo il fatto che questa trattativa si svolga a Miami, diciamo la verità. No, l'ho detto. Beh, prima. È una delle tante. È ridicolo che Spalletti sia in volo per Miami. Ma perché Pallotta non va a Roma, scusa? Ma sì, almeno scusa, si faccia il presidente. Ma scusi, il volo, anche perché Spalletti rischia dopo domani di fare il primo allenamento dopo 25 ore di volo. Ma che cazzo deve fare a Miami? Ma perché non prende un volo? Adesso questo qua è una questione veramente di rispetto, un po' per non dico per la tifoseria, perché odio questo termine, ma un po' per l'ambiente, no? Cioè tu hai un allenatore praticamente licenziato che sta allenando la squadra a Trigoria, uno che prende il direttore sportivo che ha preso un volo per Miami il giorno prima o due giorni prima, sì. Un allenatore che è, diciamo, dell'area della Toscana, più o meno, dunque raggiungibile da Roma con un taxi o con un treno, normale, eccetera, treno di un'ora, che non deve andare né a Roma né rimanere a Firenze, no, prendere un aereo per parlare a... Ma perché non parlano con Skype, per esempio, con Pallotta? Qual è il problema? È veramente una cosa folle. Cioè, questo Pallotta dovrebbe o parla con Skype, con Spalletti, oppure prende un aereo e viene a Roma, dove si svolge il tutto. O no? Cioè, Carlo, aiutami tu. Sono d'accordo. Posso aggiungere? Sono d'accordo con Giuseppe. Aggiungo che al di là del fatto specifico, e l'ho scritto anche oggi nell'editoriale della Gazzetta, questo Pallotta che vive a migliaia di chilometri di distanza... È un problema, ma è un problema anche per lui, perché non comprende la realtà romana. No, ma guarda, non sarebbe un problema, Carlo, non sarebbe un problema se delegasse totalmente. Siccome è evidente che in questa vicenda ha deciso lui, o comunque è lui che vuole prendere l'ultima decisione, allora, amico mio, ti togli dal caldo di Miami e vieni a prendere un po', poi non fa manco da troppo freddo. Oppure fai Skype. Vieni a Roma dove fanno 15 gradi, sì, a Roma, stai ma lì. La storia dei preparatori atleti quest'estate. E il vulnus di una stagione nata tra gli equivoci, perché se Pallotta indica il suo preparatore atletico e guarda caso nella partita contro il Milan vediamo che la squadra del secondo tempo crolla, evidentemente c'è qualcosa che non va. Allora non è una realtà telecomandata da Miami la Roma, ma no, la Roma perché ne stiamo parlando adesso, ma qualsiasi altro club, almeno la dignità apparentemente di non occuparsi day by day di quello che succede. Però un'altra cosa, anche la storia dei preparatori atletici, ragazzi, è stata un po' enfatizzata perché l'anno scorso c'era un preparatore atletico voluto da Garcia e la Roma nella seconda parte della stagione è crollata. Non è che il secondo tempo del Milan possa essere colpa del preparatore atletico, assolutamente. Però ha ragione Carlo, dello scollamento. Esatto. Sì, assolutamente. Però io là vorrei vederci chiaro, nessuno fino adesso ha sentito questo famoso preparatore atletico fatto fuori da manco la Gazzetta, credo, fatto fuori dalla società che voleva Garcia. Là, bisogna anche vedere come sono andate veramente le cose. È davvero accaduto questo? Cioè, è veramente Garcia è sceso a patti o comunque ha in qualche modo subito dalla società questa roba qui? Vero o non vero? Perché nessuno l'ha mai confermato. Io dico che lo nego, ma nell'ambiente dei calciatori pissi bau è che nella Roma non si lavora tantissimo, né quest'anno né l'anno scorso. Cioè non si lavora a livello atletico, dici? Sì. Vabbè. E quindi sì, il problema era di entrambi. Il pissi pissi l'ho sentito anch'io, pissi, poi pissi. Non sai mai se è vero, fino in fondo. Caro, però, io ti ringrazio. È la voce che gira. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Lodisa, io voglio tornare invece agli ascoltatori. Abbiamo ancora Hai visto che ho venduto il telefono? Che ha venduto il telefono? All'Audisa, hai sentito? Sì, ho sentito. Ah, è venduto il telefono. Luciani è come Sgarbi, ascoltatelo bene, ha sempre ragione, è inutile lo scontro. Non è vero che ha sempre ragione e non è vero che è inutile lo scontro. Fa molto ridere, sarò matto, ma quando un ex... Lo scontro su che poi? Si sta discutendo di una cosa, non c'è nessuno scontro. Non è che abbiamo tirato fuori le pistole. Sarò matto, ma quando un ex della mia squadra ci segna e non esulta, rosico come Cruciani, quando nei primi tempi della Zanzara qualche ascoltatore per sbaglio lo chiamava forbice. Vecchi tempi. Armando da Roma. Andrea da Salerno. Rosica ancora di Sanzariano. Ma chi se ne frega? Ma questo è il tifoso. È il tifoso forbice che va allo stadio ogni domenica. No, che va allo stadio ogni domenica. E come dire, pensa di avere un ruolo. Questa è la follia. Pensa di avere un ruolo. Invece di essere uno che va là, vede uno spettacolo, paga, fa il tifo per la squadra, va a casa e poi chi se ne frega, pensa di avere un ruolo. Il tifoso che mi fa impazzire. Enrico dice che rompi i coglioni. Enrico lo dice. Non è questione. Ha scritto leggi Lopardo. Cosa? Che dice che rompi i coglioni. Cosa rompi i coglioni? Ma che vuol dire però? Rompi i coglioni. Enrico. Intanto ha scritto. Intanto si è messo in moto e ha scritto. Ma il problema è aspetta, Nat, buoni. Andrea, buongiorno. Eccolo, buongiorno. Dica, tifoso che ha un ruolo, divento pazzo. Vabbè, diciamo che io mi urge il colpo di coda su Quagliarella, anche se avrei voluto parlare di sport. Cruciani, come al solito, è molto lucido. Allora, il problema è questo. Non è che possiamo fare... quasi innanzitutto c'è l'autodeterminazione. Cioè, le persone, al di là del fatto che siano sportivi o no, cioè lo sport non è una terra di nessuno, e fa parte della realtà, esatto, no? Quindi quello esulta. E gli fa, no, non esulta, gli fa piacere non esultare perché avrà dei sentimenti, che ne so. Certo. Il problema è un altro, dobbiamo fare sempre questi tutorial per i tifosi, il tifoso deve essere sempre il col pannolino asciutto, cioè dai ragazzi, su, via. Il calcio, lo sport è bello, perché ci sono sul piano della libertà c'è la libertà di Quagliarella di non esultare, c'è la libertà dei tifosi del Torino di incazzarsi con Quagliarella. Ma i tifosi, che vuol dire i tifosi del Torino? Alcuni tifosi del Torino, alcuni tifosi del Torino, parecchi di pazienza, uno dirà infatti. Sì, però ragazzi, state facendo una specie di inchiesta, una campagna per loro, la vogliono fare, mi sono subito disiscritto loro. Sì, però a me dà fastidio, quando vedere il giocatore che segna, che è il massimo della dell'attività professionale di un giocatore, soprattutto un attaccante. Ma ti dà fastidio cosa? Ma che te ne frega? Ma me ne frega. Cioè, sei una persona tu, Carlo, cioè, io penso che più fredda del mondo, sia un mal costume, un mal costume del mondo, sarà gelido, così è. Non gliene frega niente di vedere le esultanze, adesso rompe i coglioni perché un giocatore deve esultare, magari sei incredibile. Ma no, però è un mal costume italiano, cioè in Inghilterra quando Rooney, dopo tutta una carriera giovanile compresa all'Everton, alla prima partita segna un gol pazzesco contro il Manchester United, fa un'esultanza pazzesca e nessuno dell'Everton si arrabbia. Vabbè, quindi in Italia c'è questa cosa che io non sopporto, anch'io non la sopporto. E allora iscriviti alla campagna. No, non mi iscrivo. Ti riaccogliamo perché è più forte. Adesso non posso cambiare, capito? Facivati, torna. Ma perché ci dà sempre Civati? Signor Civati. Lui pensa che lo conoscano tutti, Civati. Adesso, vabbè, detto con tutto rispetto, non lo conosce nessuno, signor Civati. Te lo posso assicurare. È il tuo mondo del sinistroide. Ma non è il mio mondo sinistroide, Civati. Non ho mai neanche salutato. Non so che. Ci ho mai parlato con Civati, ma si conosce Civati, no? Oh, dobbiamo chiudere. Soprattutto quelli che seguono il calcio, comodissimo. Io farei un gol per andare avanti. Con il numero 24 entra il signor Civati. Anzi, esce Civati e entra Enrico Ruggeri, il falco di Gabbiano. Ma non avete parlato di Sodigna voi ieri? Ragazzi, grande personaggio. Cruciani ha visto Sodigna ieri e non sapeva chi fosse. E gli ha detto: ma io pensavo fossi un cantante, è venuto qui per parlare di David Bowie. Vabbè, arrivederci. Ciao a tutti, ragazzi. Giuseppe Cruciani, Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti, ci sentiamo domani. Arrivederci ragazzi, ciao!